che non mi fa pensare più a tutto quello che ho da dire. Quasi non lo voglio dire più. E penso a te che non ascolti i pensieri tuoi. E come me ti nascondi dietro a ciò che vuoi. E sto solo con me e credo di riflettere la luce che c'è qui. E sto solo così. Parli troppo e troppo poco. A volte capita di non capire cos'è che muove il gioco, cos'è che lo fa riuscire. E chiedi a me che non so rispondere se questo viaggio sarà solo confusione. E sto solo con me e credo di riflettere la luce che c'è qui. E sto solo, e sto solo con me e credo di riflettere la luce che c'è qui. E sto solo così. Ma cos'è che mi imprigiona, che non mi fa pensare più a tutto quello che ho da dire? Quasi non lo voglio dire più. E penso a te che non ascolti i pensieri tuoi. E come me ti nascondi dietro ciò che vuoi. Ciò che vuoi.